che me ne faccio dell'anima, se il corpo si disintegra come un pinocchio che si scopre di legno, cerco l'io sono attraverso l'io sogno. Dei sensi, cibami.